un rinforzo ludico a quella che era poi l'insegnamento del catechismo, qualcosa del genere. Sì, però c'erano, come citavi tu prima, dei sincretismi assurdi, perché nel Venditore dei palloncini poi la morte o il filo delle parche viene tessuto appunto da Cyril Cusack, che arriva con questi palloncini che sarebbero le anime dei bambini, quindi si fondevano vari linguaggi, varie suggestioni probabilmente. Luisa, buongiorno. Ah, buongiorno. Niente, io sento che lei a stento sta trattenendo le lacrime, ma pianga, liberatorio, se vuole meglio. No, assolutamente no. Non le viene da piangere? No, io... Il venditore di palloncini, il povero Cesquier, che muore schiantato sulla strada, preso da un'automobile. No. Io cambio canale, cioè spengo la televisione. Ma questa è radio. Esatto, perché non già io penso che abbiamo già tante difficoltà, e oltretutto andarmi, cioè non sono così masochista, dopo una giornata di problemi, di stress, di lavoro, andare anche a piangere. Ma lo conosce il genere, però, del lacrima movie? Ha sentito parlare, ha visto qualcosa? Sì, li ho visti, il signore, cos'è, quello di palloncini compreso, ma li ho visti. E piangeva al tempo, quando era meno crudele di oggi? Piangevo, sì, però quando ho capito che era inutile andarmi a fare del male, guardando questi film che comunque ti fanno star male, ho detto, ma chi me lo fa? È andata a vedere i film di Tinto Brass, ha cominciato a farsi del bene. No, quelli proprio... no, diciamo, io amo i film, le commedie brillanti, insomma, onestamente... Ma secondo lei perché proiettano questi film? Perché noi tutti da piccoli andavamo a vederli poi? Uscivamo piangendo, ci sentivamo... Perché ci costringevano e poi noi neanche sapevamo cosa andavamo a vedere. E chiaramente quando si è piccoli, quando si è giovani, non conosci le cose, le vai a vedere, come ho fatto io, come hanno fatto tutti. Però è stata una bella lezione di vita, perché vedo che oggi ancora, nel Corriere della Sera, in prima pagina, mettono un lacrima movie trasformato in fotonotizia. Evidentemente c'è un senso in questo. Sì, evidentemente ci sono delle persone che stanno bene, a cui piace questo genere di film. Che gli dà gusto vedere la sfiga degli altri, perché in fondo un po' gli dà gusto, gli piace vederla. Prego, Sanson. Fa parte dell'onanismo sentimentale di massa, che poi appunto si è traslato nella stampa. La stampa adesso l'ha ereditato completamente dai B-movie, dai lacrima movie dell'epoca. Dimentichiamo le storie atroci, quando ci furono delle delittuose storie di bambini uccisi o bambini scomparsi, quanto hanno intinto i giornali, la zuppetta nella foto del bambino, è diventata una sorta di brand della lacrima pubblicamente spalmata e pubblicamente celebrata. Sì, sì. Io ricordo Vespa con un sabò in mano e un mestolo, cosa ha ucciso il piccolo Samuele, il sabò, quindi il lacrima movie, diciamo, è alle radici mitiche della nostra contemporaneità, tutte ne attingono anche inconsapevolmente. Stiamo risalendo la china o la scaturigine profonda del nostro immaginario e andiamo avanti sull'ultima neve di primavera. È un film che mi ha segnato anche biograficamente, perché fu girato a Perugia, perché costava meno probabilmente la location perugina, quindi tutti andammo a vedere il film, che poi aveva soltanto una sequenza, una salita lungo diciamo i giardinetti di Perugia, chi la conosce, all'inizio via Baglioni finì la sequenza e finì Perugia, poi non si vede mai più Perugia, però tutti a Perugia lo andranno a vedere, anzi mi sembra che l'anteprima fu a Perugia. È un altro film sfigatissimo questo, qui c'è un bambino che fa una fine miserrima. Esatto, sempre del capostipite del genere, che è Raimondo del Balzo, che ne ha fatti diversi, usando sempre Renato Cestier come vittima sacrificale, che poi sarebbe diventato il massimo dei ragazzi della terza C. Andiamo e sentiamo. Papà. Ciao, scusami, non ho fatto tardi ieri sera. Papà, lo sai che puzzi di tabacco? Davvero? Vedrai che tra qualche anno saprai di tabacco e di whisky, anche tu. Io no. E perché? Da grande berrò soltanto vodka. È più buona. E poi piaceva la mamma. Va bene, bevi vodka. Qua si presuppone una mamma morta di cirrosi per abuso di vodka, però il bambino nelle sue sinestesie sentimentali preferisce l'alcolismo alla vodka, perché gli ricorda la mamma morta, piuttosto che il bieco. Dimentichiamo che siamo negli anni 60, il whiskino era il luogo della trasgressione di tutti i film di Tognazzi, di Gassman, di Alberto Sordi. Nelle case anni 60 si entrava, c'era quell'angolino bar terrificante e ci prendiamo un whiskino. Era il segno dell'emancipazione dal mezzo litro di vino dell'Italia che usciva da un disastro bellico e risorgeva col whiskino. Quindi il papà che dice al figlio: anche tu puzzerai di whisky di tabacco, già pronto un futuro depravato e malato del figlio. Da Gaglioff un po' appunto alla Tognazzi, invece la madre, la vodka dostoevskiana, insomma, da eroina di sì, che poi quella vodka finta al limoncello che si vendeva ai supermercati. Terrificante, certo.

sì, solo che poi c'è stata l'incubatrice, nel senso che ho manifestato precocemente la mia indipendenza, quindi... Sì, però adesso svelo un tuo segreto. Questo film, che è praticamente introvabile, Luca Bambino Mio, tu potresti darci qualche indicazione di più sulla sua genesi e soprattutto sul documento che hai in mano? C'è un particolare molto interessante. Il film è del 71 ed è oggi introvabile perché non è mai stato distribuito neanche in VHS o DVD. Io sono riuscito a recuperarlo grazie al quinto sceneggiatore che figura nei crediti, che è un italiano, si chiama Luciano Martino, cioè un produttore regista poi di film scollacciati, Edwidge Fenech, fratello del altrettanto famoso Sergio Martino. Sì, tutte le corde e l'emozione tocca. Quindi tu hai in mano questa copia originale di Luca Bambino Mio, e per Natale? E per Natale lo farò vedere per la prima volta ai miei genitori dall'epoca. Ed è una sorpresa, a meno che non mi stiano sentendo adesso. No, non ti sentiranno senz'altro, almeno spero che non ti abbia sentito in questo momento, quindi dimostra che in fondo, vedi, la profonda e commovente storia di Luca Bambino Mio ha in un attimo schiarito la durezza del tuo cuore impietrito e ti ha fatto fare un gesto buono per questo Natale. Luca, bambino mio. Mamma! Questa è la mia croce, formata da tutte le sofferenze dell'umanità, perché in verità vi dico che io sono il Dio dei poveri e degli abbandonati. Oddio, c'è da dire in questa scena mistica con la quinta del crocifisso che guarda Luca Bambino Mio che si ricongiunge con la madre, c'è solo un punto, la madre di un'orripilanza terrificante, quindi il bambino probabilmente inizierà una traumatica esistenza a fianco della mamma perduta. Caro papà, cara mamma, vi prego di perdonarmi per questo nuovo dispiacere che vi do. Non è perché non vi voglio bene che vado via, ma perché ho capito di essere diventato come un peso per voi. Mamma, scusami se ti ho fatto disperare proprio quando avrei dovuto starti più vicino. So che il collegio sarebbe la migliore soluzione per me, ma ho ancora tanto bisogno di affetto. Spero che tu, papà, non sia tanto arrabbiato con me, perché io invece ti voglio tanto bene ed ho una gran voglia di abbracciarti, di stringerti e di chiederti perdono. Papà! Papà! Qui siamo veramente nel sublime di questo lassativo emozionale che è il Lacrima Movie. Sempre Renato Cestier, l'immarcescibile, l'immortale, l'uomo, il bambino delle mille vite, alla fine di una terrificante esistenza, anche lì genitori, orfani, separati anzi. Molte volte c'era questo tema ricorrente dei genitori separati, non dimentichiamo che erano gli anni Giuseppe Sanzon in cui si doveva capire e definire se gli italiani avessero liceità di divorziare o no, quindi giù un bel clisterone di questi film con genitori separati, il cui esito era il bambino naturalmente sempre molto, molto tartassato all'esistenza. Beh, nell'Albero alle foglie rosa, almeno nella sequenza che io ricordo, c'è una scena finale bellissima, da solo questo bambino non si capisce perché va sul raccordo autostradale, viene naturalmente travolto da una macchina in corsa, invece di rimanere sfrittellato sull'asfalto, ma sarebbe normale, ha una lunghissima agonia che dura 10 minuti, in cui ha una visione mistica, sogna la mamma naturalmente perduta e via dicendo, ma abbraccia un albero dalle foglie rosa, immaginando che sia il corpo della madre, in realtà l'albero segna il lato della strada in cui è andato a schiantarsi, è qualcosa del genere. Godard diceva che il carrello è una questione morale, parlando di Capò di Pontecorvo, sulla morte di Emanuele Rival che muore sulle filo spinato. In questo caso il problema di Nannuzzi, il regista di questo film, non c'è rispetto a Pontecorvo, perché lui fa un carrello su questo bambino che, già malato, viene travolto da questa macchina sull'asfalto bagnato, e il coniglio di pezza del bambino che cade e si intride di pioggia e fango, quindi c'è proprio un'insistenza eccessiva. No, era bello che non si vedeva mai sangue, poi c'era la necessità di non mostrare aspetti splatter, cruenti, quindi l'impatto con, adesso non ricordo bene se un autotreno, un'automobile in corsa, che sarebbe stato deleterio per il corpicino del bambino, dovrebbe essere minimamente depezzato. Non ha una goccia di sangue, solo ditate di morchia sulla faccia, di fango, è solo sporco. apparentemente avrà delle lesioni interne gravissime, perché ci mette un quarto d'ora, poi muore abbracciato all'albero. Certo, con quel pallore da Ofelia, Ofeliesco appunto, che gli conferisce questa sacralità, che poi questo abbraccio finale, questo urlo alla Teorema, papà, papà, gridato abbracciando appunto il... Che nessuno lo sente, perché nello sperduto raccordo anulare alla periferia non c'è nemmeno una casa, dimentichiamo che ancora siamo lontani dall'inurbamento selvaggio, quindi era... campagna attraversata un'autostrada, quindi si accorgeranno del corpicino sfrittellato solo dopo settimane. Cristiana, buongiorno. Buongiorno, devo dire che siete di una cattiveria meravigliosa, sorridendo. Io tra le altre cose sono malatissima, quindi potrebbe essere la mia ultima dichiarazione. Beh, se ci fai una bella agonia, però avendo tu immagino una quarantina d'anni, non ci fai pietà. Stanotte ho agonizzato abbastanza, ma non in diretta, mi dispiace. Fortunato comunque, chi ti stava vicino. Da sola. No, volevo dire che tutti questi film in realtà hanno dei precedenti meravigliosi in quelle storie terrificanti che venivano raccontate dalle nonne ai nipotini. Io avevo mia nonna che ci raccontava una sorta di poesia in cui c'era una bambina orfana di mamma che si recava sulla tomba della mamma e cominciava a scavare col ditino, finché il ditino era tutto quanto insanguinato e scavato quasi fino all'osso, e a quel punto con una spilletta da baglia raschiava la terra cercando di arrivare alla bara della mamma. Sì, ma che ci faceva poi col liquame della mamma, fammi capire. Ma schifo terribile, non lo so, mia nonna raccontava questa cosa, noi ovviamente la guardavamo, piangevamo come delle bestioline, noi tre nipoti eravamo piccoli tra le altre cose. Adesso devo cercare di capire se mio padre si ricorda questa cosa, perché vorrei trascriverla. Allora, che sia di te, per te, come linimento e balsamo per la tua malattia, sentiti la pagella. Scappa, scappa, scappa! Fa male. Uomo. L'ho visto, l'angelo, papà. Io... Gesù. No, Gennari. Gennari, rispondi, Gennari. Abbiamo sentito soltanto singulti moribondi del bambino, bambino morituro, padre pentito. Qua siamo alla pagella, anche la qualità scarsa di questo reperto ne dimostra l'autenticità e soprattutto la rarità. La pagella, in che filone siamo? Qua già si avvicina all'orizzonte un nuovo filone, che è tutta la sceneggiata napoletana, Nino D'Angelo, Merola e via dicendo. L'ambiente partenopeo. A questi film va aggiunta quella patina che gli conferiva la visione nelle TV private, quindi quell'appeggioramento visivo già dato, che ammantava il tutto. Di cui Tarantino fece una cifra stilistica importante. Esatto. A proposito di Tarantino, invece c'è il genio Mario Bava, che fece un'irrisione straordinaria di Lacrima Movie, fra l'altro con un film che si chiama Cani Arrabbiati, in cui c'era Cucciolla che aveva questo bambino alla Cestier, biondo, moribondo, pallido, avvolto in una coperta, e però poi alla fine si scopriva che non era un padre bonario rapito da questi rapinatori, ma era lui stesso il rapitore di questo bambino, quindi c'era una sorta di irrisio di rovesciamento in Cani Arrabbiati. Ah, sì, una sorta di sindrome di Stoccolma trasformata e spacciata per legame affettivo. Angela, chiudiamo con lei. Pronto? Angela, sì, ci faccia commuovere questi ultimi istanti. Allora, io non intendo fare commuovere nessuno, mi fa commuovere tantissimo ogni giorno la società e la cronaca che sentiamo quotidianamente alla radio, alla televisione. No, non ci dica questo, Angela, però è una banalità, mi scusi. Noi siamo... No, non è una banalità, mi scusi invece lei, assolutamente non è una banalità. Vabbè. Perché è vero quello che dite voi, è stato un filone veramente straziante, commercialmente valido per quello che era il periodo. Però io quando poco fa ho acceso la radio e mi sono sintonizzata con voi, ho sentito parlare per esempio L'ultima neve di primavera. Com'è che ancora a 44 anni risento gli stessi sentimenti, le stesse emozioni? Glielo dico. Non mi prendete come una moralista. No, sono moralista. Un'infinità di... Ci hanno chiamato centinaia di persone dicendo che si commuovono. Perché è molto più facile commuoversi per un film che andarsi a insozzare l'anima con la vera sofferenza dell'umanità. Solo per questo. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Radio 24. La passione si sente.